TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Confindustria, Assemblea Unitaria, Trieste nel segno dell'Europa, le tre anime dell'associazione si ricompattano per sostenere le istanze degli imprenditori. Electrolux a Porcè, sindacati provano a ricucire lo strappo con la base sulla proposta dell'azienda di 4 sabati lavorativi straordinari. Affitti brevi, gli agenti immobiliari contro la stretta del governo, intanto le locazioni in regione scendono. La tortura, reato universale, un congresso a Trieste. Fra i relatori lo specialista che ha eseguito l'autopsia su Giulio Regeni. Cime dei monti imbiancate dopo il passaggio del fronte di maltempo. A Trieste copiosa grandinata notturna in una zona circoscritta del centro. Michelangelo Pistoletto torna a Gorizia, lezione a scuola dal grande artista con il suo progetto per la pace. Calcio, Attilio Tesser torna sulla panchina della Triestina. È la quarta volta e questa volta è per una missione impossibile. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Industria Europa, questo è il titolo dell'assemblea pubblica nella quale le diverse anime di Confindustria arrivano a un ricompattamento dopo lunghe divisioni, promosso da Confindustria Friuli Venezia Giulia e organizzato in modo congiunto da Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. L'appuntamento esamina le istanze delle associazioni imprenditoriali alla politica europea e il ruolo delle grandi imprese in questo contesto. Folta e qualificatissima la partecipazione. È stata la presenza di Bernard Henri Lévy, la sorpresa dell'Assemblea di Confindustria Friuli Venezia Giulia al centro congressi del Porto Vecchio di Trieste, la prima insieme tra Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. L'intellettuale francese ha parlato in apertura, a braccio, per 3/4 d'ora, sopra un palco raffigurante una grande bandiera europea. Lévy, da qualcuno definito ideologo dell'Occidente, ha sottolineato la necessità per l'Europa di costruire una difesa comune e ha avvertito sui rischi del populismo. C'è la firma di Michelangelo Grussi dietro l'invito a Lévy, e sempre a Grussi, che ha voluto chiamare Industria Europa l'assemblea regionale di Confindustria. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico ha parlato dal palco della necessità di rivedere alcune normative europee che pesano troppo sulle imprese. Della stessa idea il numero uno di Confindustria Udine, Luigino Pozzo. È stato un intervento critico sulla direzione intrapresa dall'Europa, quello del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, un'Europa che deve essere un'Europa di popoli, ha detto. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, si è detto contrario a un'idea super burocratica e antindustriale dell'Unione Europea e al nostro microfono ha difeso l'azione del governo, dicendosi ottimista sulla capacità di trovare un accordo in maggioranza rispetto a Emmanuel Mori sulla manovra di bilancio che tuttavia in caso di modifiche dovrà rimanere a saldi invariati. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È in corso a Porcia la riunione tra i rappresentanti sindacali di Wilm, FIM e FIOM con i portavoce delle RSU dell'Electrolux per chiarire i motivi che mercoledì hanno fatto naufragare l'accordo tra aziende e lavoratori in merito alle giornate di lavoro straordinario richieste in seguito all'improvviso aumento della domanda. Tra i motivi che hanno fatto saltare la bozza di accordo intesa su 5 sabati da 6 ore lavorative rispetto agli originali 7 da 8 ore, questioni organizzative quali un inquadramento a turni lavorativi. Sullo sfondo l'incertezza dovuta all'ingresso del nuovo amministratore delegato Yannick Fierling, di cui non sono ancora noti gli orientamenti per il futuro aziendale. La Federazione degli Agenti Immobiliari boccia l'aumento della tassa sulle locazioni brevi, un provvedimento definito discriminante e in contrasto con le conquiste fatte per garantire la legalità nelle negoziazioni. Intanto gli ultimi dati del centro studi FIAIP indicano che le locazioni brevi in regione sono in calo. Sono circa 13.000 ad oggi in regione le unità immobiliari abilitate alle locazioni brevi e turistiche sotto i 30 giorni. Altri circa 3.200 proprietari di immobili hanno richiesto l'abilitazione. Tra le 4 ex province, in testa Udine, che ne conta oltre 8.000, concentrate per lo più in montagna e a Legnano Sabbiadoro. Trieste ne ha più di 2.500, Gorizia oltre 1.600, il grosso a Grado, e infine Pordenone all'incirca 800. Dati del Centro Studi Nazionale della FIAIP, che segnala inoltre il calo di circa il 10% degli alloggi alloggi per locazioni brevi sul mercato per effetto delle normative più restrittive imposte ai proprietari per garantire maggiore trasparenza e regolamentazione, comunque numeri che incidono ben poco sul mercato generale degli affitti e che non fanno concorrenza al settore alberghiero, rileva il neopresidente del centro studi FIAIP, Leonardo Piccoli, che considera in ogni caso ingiusto e ingiustificato il ventilato aumento della tassazione sulle locazioni brevi, una scelta a suo dire in contrasto col provvedimento regionale che invece ha abbassato la tassa sulle prime e seconde case e discriminante verso i professionisti che gestiscono queste locazioni, poiché la manovra punta a mantenere la tassa invariata solo per il privato che fa da sé. Secondo il referente degli agenti immobiliari, inoltre, penalizza i piccoli proprietari che nella maggior parte dei casi, spiega, hanno ricevuto gli immobili per successione ereditaria e li hanno messi in locazione con questa modalità per arrotondare il bilancio familiare, ma anche per avere la certezza di poterne rientrare subito in possesso. Per Piccoli l'attuale normativa sugli affitti abitativi non aiuta e a fronte di conduttori sempre più in difficoltà a pagare i canoni andrebbe rivista per tutelare di più i proprietari e incentivarli agli affitti ordinari. In Friuli Venezia Giulia, tuttavia, non c'è grande crisi abitativa, precisa Piccoli, per il quale le locazioni brevi rappresentano una grande risorsa anche per dare risposte alla crescente domanda di alloggi per brevi periodi, trainata da lavoratori in trasferta e una mobilità turistica cambiata. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Prima giornata per il convegno multidisciplinare Il paziente cronico, conoscere i problemi per proporre interventi efficaci, in calendario fino a domani a Trieste al Convention Center dalle 14. Tra i relatori Andrea Di Lenarda, direttore del reparto patologie cardiovascolari di Trieste. È sempre a Trieste questa mattina un convegno sulla tortura organizzato dall'università, i tanti risvolti di un reato universale, la questione dei diritti, la tratta degli esseri umani, l'uso della forza in carcere, i processi. Tra gli ospiti il professor Vittorio Fineschi dell'Università La Sapienza di Roma, che si è occupato dell'autopsia sul corpo di Giulio Regeni. Le difficoltà sono state innanzitutto di tipo giuridico, perché vi è stata difficoltà ad avere gli imputati che tuttora si difendono, ma sono contumaci nel senso che non si sono mai presentati in aula, non hanno mai avuto l'estradizione. Le difficoltà poi sono state non tecniche, perché sul corpo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo da protocollo, e le altre difficoltà sono state proprio dal punto di vista procedurale, che siamo stati sentiti con un contraddittorio, e adesso il processo, notizia di ieri, è nuovamente fermo in attesa della Corte Costituzionale proprio per un diritto di difesa degli imputati che non hanno i propri consulenti al momento. Ovviamente il caso Regeni non potrò farlo vedere perché ci sono ancora limiti processuali, farò solo vedere il caso nella sua dimensione storica, perché ormai è un caso che ha i suoi anni, e anche geografica, ciò che in Egitto succedeva, perché dell'Egitto abbiamo letteratura che si riferisce agli anni precedenti a questo regime, cioè la tortura in Egitto a seconda dei regimi è stata pubblicata. Noi abbiamo documenti scientifici che ci dicono fino al 2010 che cosa succedeva nelle prigioni e nei luoghi militari del Cairo. Conseguentemente il caso Regeni si iscrive con un regime diverso, ma evidentemente nello stesso costume torturativo che in Egitto ha queste realtà. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Senza gravi conseguenze, l'ondata di maltempo delle ultime ore e i numerosi interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato in gran parte rami e alberi caduti o pericolanti. In montagna, cime imbiancate, a Trieste allagamenti scantinati e una circoscritta ma significativa grandinata notturna. Sentiamo. La perturbazione con tanto di allerta gialla è terminata donando al santuario del Lussari l'immagine da cartolina invernale con l'annunciata spruzzata di neve, ma era molto più di una spruzzata la grandinata che attorno a luna di notte ha colpito alcune vie di Trieste sopra Barcola, con una quantità di chicchi di ghiaccio tale che alle 8 di mattina strada del Friuli appariva imbiancata come dopo una copiosa nevicata. Interventi del comune e dei vigili del fuoco per rimuovere il ghiaccio accumulato al suolo anche nella zona del cavalcavia di Viale Miramare, mentre le rive e una parte di via Mazzini attorno a luna di notte sono state allagate. L'acqua alta si è ritirata con l'abbassamento della marea a causare la copiosa grandinata, invece l'aria fredda che è entrata nei bassi strati con il vento di nord-est, mentre negli strati più alti al largo sopra il mare c'era ancora aria calda e umida. L'incontro delle due masse d'aria ha creato forte instabilità e favorito la grandine. Più marcata è la differenza di temperatura tra le due masse d'aria, più aumenta la probabilità di una forte grandinata, spiegano i meteorologi. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le 12.40, ora diamo uno sguardo alla situazione del tempo com'è al momento. Abbiamo cielo da sereno a poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 15,5 gradi, a Pordenone 15, a Udine, a Gorizia 14. Nell'area montana, a Tolmezzo 9,5 gradi, a Tarvisio 6, a Sappada 6,5, sul Piancavallo 9, a Forni di Sopra 8 e ancora in quota sullo Zoncolan 4 gradi, sull'Ussari 2, sulla costa a Grado e a Lignano 15. Per le previsioni meteo del weekend abbiamo parlato con il previsore dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Francesco Sioni. Dopo il fronte passato nella serata di ieri, nei prossimi giorni avremo afflusso di correnti più secche e fredde. La giornata quindi di sabato vedrà in generale una buona giornata, con cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature che potranno essere anche spesse, stabile tutta la giornata, tranne in serata non si esclude qualche rovescio che possa interessare la zona appunto del Carso, ma confinante sostanzialmente con la Slovenia. Temperature lievemente al di sotto della norma del periodo. Domenica, una prima parte della giornata che vedrà cielo poco nuvoloso o appunto variabile, dal pomeriggio invece aumento della nuvolosità. Potrà poi entrare appunto aria fredda da nord, come venti appunto con raffiche sostenute o moderate da nord sulla zona montana e sulla pianura, o di bora sulla fascia orientale, sempre moderata o al più sostenuta. Proprio durante quest'area fredda in ingresso potremmo avere dei rovesci sparsi sulla regione. Dal punto di vista delle temperature cosa possiamo dire? Le temperature medie per tutti i prossimi giorni, e sembra appunto anche per buona parte della settimana entrante, rimarranno al di sotto della norma del periodo. Le principali novità della riforma Cartabia saranno nel pomeriggio al centro di un incontro in Camera di Commercio a Trieste. Alle 15 l'appuntamento sull'arbitrato amministrato e la convenzione tra la Camera di Commercio Venezia Giulia e la Camera Arbitrale di Milano. A Dignano è in programma il primo incontro del ciclo informativo supporto e valorizzazione del caregiver familiare, mappatura, formazione e sostegno, che proporrà l'evento una figura che protegge, l'amministratore di sostegno. Appuntamento in municipio alle 20. Cambio della guardia per i genieri alla caserma Bergins di Udine. Ascoltiamo. La bandiera con lo stemma sabaudo con cui venivano avvolti i caduti del 31° battaglione guastatori d'Africa, la carta geografica donata dal generale tedesco Rommel a Paolo Caccia Dominioni, già comandante dello stesso battaglione nelle battaglie di El Alamein, le trincee della Prima Guerra Mondiale ricostruite con accuratezza. Sono solo alcune chicche custodite nel museo del 3° Reggimento Genio Guastatori della caserma Bergins di Udine, che ha ospitato la cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Massimiliano Cafagna e il parigrado Giuseppe Antonio Urso, cerimonia presieduta dal comandante della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, generale Andrea Bertazzo, che durante il suo discorso ha sottolineato come la complessità dell'attuale periodo storico richieda un maggior impegno e dedizione nell'addestramento, anche perché i guastatori saranno chiamati sempre più spesso a operare in nuovi scenari utilizzando tutte le tecnologie a disposizione. Il 3° Reggimento Guastatori dipende dalla brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli e, oltre alle svariate operazioni internazionali e al costante contributo fornito con il proprio personale all'operazione Strade Sicure, è chiamato anche a operare nella bonifica di ordigni bellici del territorio. Nel corso del 2025 gli specialisti del reparto hanno effettuato oltre 200 operazioni di bonifica, con la distruzione di 837 ordigni esplosivi di varia tipologia e calibro, l'ultima lo scorso 18 ottobre con la neutralizzazione della bomba d'aereo americana del secondo conflitto mondiale rinvenuta presso il Porto Nuovo di Trieste. Una storia gloriosa quella del 3° Reggimento Genio Guastatori, che rivive nel museo ora riallestito con preziosi cimeli e testimonianze come quelle di un personaggio straordinario come Caccia Dominioni, medaglia d'oro al valore dell'esercito, comandante, ingegnere, architetto, scrittore e artista. Grazie alla sua opera oltre 1500 salme di caduti, non solo italiani dispersi nel deserto, vennero ritrovate, identificate, restituite alle famiglie. 4.000 soldati riposano oggi nel sacrario militare italiano di El Alamein, da lui progettato e costruito. Udine, Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. un incontro intitolato Un treno per il futuro, turismo, industria e mobilità per la pedemontana friulana, per discutere il progetto di rilancio della ferrovia pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile. È in programma a Pinzano al Tagliamento e nella Sala Somsi alle 20. L'organizza Il Passo Giusto, rivista nata in seno al Patto per l'Autonomia. L'incontro sarà un confronto con amministratori locali, cittadini, esperti di trasporto e associazioni per esaminare il possibile ripristino della linea pedemontana e costruire una proposta concreta. Ieri è stato approvato in via definitiva il progetto per l'area verde annessa al Polo Young di Pordenone. Prossimo passo, il via libera alla gara d'appalto a fronte di un investimento regionale da 700.000 euro che include la piantumazione di 56 nuovi alberi e 5.000 metri quadri di prato, oltre a lavori alla pista ciclabile del Polo, congiunta a via San Quirino e via Concordia. L'iniziativa prevede anche un parcheggio e una gestione più efficiente delle acque meteoriche dell'area e interventi e arredi quali panchine e giochi per i bambini. Il cronoprogramma per ora prevede l'avvio dei lavori nel prossimo anno. Sono numerose le iniziative organizzate a Casarsa in occasione del cinquantennio dalla scomparsa del regista ed intellettuale Pier Paolo Pasolini. Tra i temi anche i contorni di una scomparsa ancora non chiarita. Nel cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, Casarsa della Delizia celebra il poeta figlio di questa terra, restituendone la voce viva, capace di parlare ancora oggi, specie ai più giovani. Il 2-3 novembre il centro studi a lui dedicato, che ha sede nella casa materna, promuove due giornate di incontri, letture e dialoghi, sempre con uno sguardo alle nuove generazioni. Il presidente del centro studi, Marco Salvadori. 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini ci offre l'opportunità certamente di fare un rendiconto di un lungo periodo attorno al quale ci sono ancora, come dire, misteri e domande a cui non sono state date delle risposte. Ma a prescindere da questo, il Centro Studi vuole inaugurare una nuova politica della propria programmazione culturale, rivolgendosi prevalentemente ai giovani. Giovani che, non avendo conosciuto Pasolini, sono comunque molto interessati e molto attratti dalla attualità del suo pensiero, ed è proprio quindi in questa direzione che il convegno di novembre vuole inaugurare una nuova stagione con un nuovo pubblico che continua ad aggiornare l'attualità del pensiero di Pierpaolo. Si parte il 2 novembre con la cerimonia nel cimitero di Casarsa per chiudere la sera del giorno dopo con Roberto Vecchioni. Valentina Gasparet, Centro Studi Pierpaolo Pasolini. Si comincia il 2 novembre, proprio nella giornata dell'anniversario, al mattino alle 10 al cimitero di Casarsa, con un momento solenne, la lettura anche dell'orazione funebre di padre Davide Maria Turoldo da parte dell'attore Massimo Somallino. Alla sera alle 21 al Teatro Arrigoni di San Vito a Tagliamento, Edoardo Camurri ci porterà nella parola viva di Pasolini. Lunedì 3 novembre il grande convegno di studi Pasolini nell'immaginario collettivo, e poi si chiuderà con una speciale lezione di Roberto Vecchioni dal titolo Pasolini, poeta dell'universalità umana. Dal 2 al 6 novembre si terrà inoltre la Pasolini High School transfrontaliera con studenti italiani, sloveni e di altri paesi europei. Casarsa, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo il suo intervento con la sfera dei giornali nei primi appuntamenti di Go 2025, l'artista Michelangelo Pistoletto è oggi di nuovo a Gorizia per partecipare al forum Go 2025, città della pace e città del futuro, incentrato sull'uso del dialogo come fondamentale per realizzare una pace duratura attraverso azioni preventive. Prima della firma sul libro d'onore del comune che sta avvenendo in questi minuti, Pistoletto ha tenuto una lezione in una scuola. Lo abbiamo intervistato. L'emozione che ha vissuto vedendo rotolare la sfera tra i due confini, tra le due città, in quel percorso che è un percorso di pace. L'emozione è grandissima, perché quando qualche cosa che si immagina possa avvenire quasi come un miracolo e poi vedi che il miracolo si realizza, beh, proprio un'emozione, vero? La mia emozione era data dal fatto che pensare che due città che hanno avuto un conflitto come passato tra loro possono diventare una terza entità. Uno e uno fa tre, che come la formula della creazione che io ho messo in campo si realizzi, mi sembra straordinario. E che questa sfera di giornale che è uscita dal mio studio non per andare dentro un museo, ma per attraversare gli spazi e il tempo e unire due città, vuol dire che l'arte sta funzionando anche in senso estetico e politico. E si sta creando una pace preventiva in questo luogo. E questa è una pace preventiva che vuol dire che inizia un percorso, perché tutto può finire qui, ma può iniziare un percorso di intesa, e questa intesa porta a qualche cosa che impedirà le guerre future. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. Merletti, fili che uniscono, il titolo della mostra che sempre a Gorizia mette a punto, espone opere di due tradizioni geograficamente lontane ma affini, quella di Cogne in Val d'Aosta e quella di Gorizia. E oggi, in occasione dell'inaugurazione alla scuola Merletti di Gorizia in Corso Verdi, sarà possibile vedere all'opera le maestre merlettaie e scoprire come la tradizione diventi arte viva e contemporanea. L'iniziativa dalle 15:30 alle 19, la mostra sarà poi visitabile fino al 1 dicembre. Passiamo agli spettacoli. Fitta l'agenda di oggi con molta musica, a cominciare dal concerto di Mario Brunello e Giovanni Solli, Mammon Falcone con la Friuli Venezia Giulia Orchestra al Teatro Comunale. Al Verdi di Trieste invece il 7° appuntamento della stagione sinfonica, con Giuseppe Gibboni a dirigere l'orchestra della Fondazione Lirica ed Enrico Calesso al violino. Al Festival Jazz and Wine of Peace la superstar e la sassofonista Nubia Garcia al Teatro Comunale di Corpmons. E ancora a Trieste, primo appuntamento per la rassegna I Fabbri 2, apertura con Il viaggio di Nicola Calipari, ideato, diretto e interpretato da Fabrizio Coniglio e Alessia Giuliani. Lo sport calcio torna a Tilio Tesser sulla panchina della Triestina. A poche ore dalla notizia della nuova penalizzazione da scontare in questo campionato, la società labardata questa mattina ha dapprima comunicato di aver esonerato l'allenatore della prima squadra, Giuseppe Marino, insieme ai suoi collaboratori, e poco dopo di aver contrattualizzato il super ex di Montebelluna. Per la quarta volta il tecnico approda dunque alla Triestina e oggi con una missione impossibile: portare gli alabardati alla salvezza. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. I 3 punti inflitti ieri dal Tribunale Federale Nazionale hanno portato il fardello complessivo a 23 punti, 10 dei quali sono stati recuperati. In classifica la Triestina è ora a meno 13, a 20 punti da Lumezzane e Propatria, che sono appaiate al penultimo posto a quota 7. Il nuovo debutto di Tessere per lunedì a Fontanafredda contro il Dolomiti Bellunesi. 12:52, abbiamo ancora tempo per un'ultima notizia. Come obiettivo la corretta gestione igienico-sanitaria della filiera delle carni di grossa selvaggina, il convegno intitolato Selvatici e Buone, azioni per lo sviluppo di una filiera sostenibile, organizzato da Federcaccia, che si terrà a Borgnano di Cormons all'albergo Gon in via Donizetti alle 18. Sono le 12:53, è tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie a Caterina Cabrelli e a Walter Vidonis. La prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.